se ti penso un'altra volta. Tutta questa via dov'è che porta? Solamente ci abito, magari invece tu, magari invece tu. E se sto consumando il mio rossetto, è tutto fuori posto in questo letto. Solamente mi agito, magari invece tu, magari invece tu. Tanto questa vita prima o poi ci fotte, come Cenerentola a mezzanotte. Né che stiamo urlando, sì ma sottovoce. Adesso parlami che è un bel rumore. Che senso ha stasera, ora che noi ci parliamo? E forse non ci conosciamo, ma che senso ha stasera, ora che non siamo buoni, ora che non siamo soli? E scusa se mi perdi un'altra volta, siamo come gli Oasis di una volta. Io non sento più Wonderwall, magari invece tu, magari invece tu. Era tutto un fantasy perfetto, tenevo il rock and roll nel mio cassetto. Magari mi ci abituerò, magari invece no, magari invece no. Tanto questa vita prima o poi ci fotte, come Dorian Gray e il suo ritratto in fiamme. Noi che stiamo urlando, sì ma sottovoce. Adesso parlami che è un bel rumore. Che senso ha stasera, ora che ne ci parliamo? E forse non ci conosciamo, ma che senso ha stasera, ora che non siamo buoni, ora che non siamo soli? Veloce e te lo dico sottovoce come te. Che senso ha stasera, ora che noi ci parliamo? E forse già ci conosciamo, ma che senso ha stasera, ora che noi siamo buoni, ora che torniamo?